Bippo il satellite e il brigadiere. Una mattina che Bippo stava partendo per una ispezione, incontrò uno strano tipo che era appena arrivato alla base spaziale. Era il brigadiere bombardiere, che raccontava a una folla di piccoli droidi che ascoltavano a bocca aperta le sue millanterie. Mi trovavo là, circondato dai caccia nemici. Oh, almeno 600. Qualunque altro bombardiere si sarebbe arreso, ma io no. Con la mia astuzia leggendaria gli ho messo sotto il naso i miei laser. Non per niente sono il migliore tiratore della flotta. Chi è quello? Chiese Bippo alla navicella spaziale Zeche. È il brigadiere bombardiere. È appena tornato dalla guerra. A me pare un pallone gonfiato, disse Bippo. In quel mentre il brigadiere si voltò e guardò Zeche. Ma questa che è? Una vecchia navicella spaziale? Che ferro vecchio, meglio farne l'aspirapolvere. Dove ero arrivato? Ah sì, appena li abbia a tiro, sparai i miei terribili laser. Zeche si allontanò in silenzio. Quello stesso giorno, mentre volava a casa, Bippo vide il brigadiere vicino a un buco nero. Stava ignorando i segnali di pericolo. Bippo gli volò incontro. Scusi, signore, ma non dovrebbe avvicinarsi al buco nero. È molto pericoloso, potrebbe risucchiarla. Ehi tu, razza de presuntuoso. Io sono un eroe intergalattico. Non ho nessun bisogno che un moccioso come te mi dica cosa devo fare. Ma, signore, è davvero molto pericoloso. Mamma, o farò rapporto al tuo capo, ficca naso rompiscatole. Senza curarsi degli avvertimenti di Bippo, il brigadiere volò sempre più vicino al buco nero, dove dozzine di piccoli droidi rossi inferociti stavano in agguato con una grossa calamita. Sta arrivando, fra poco sarà nostro, sembra appetitoso. Un po' alla volta il brigadiere venne calamitato dal buco nero. Non riusciva a resistere. Veniva attirato con forza verso il centro. Aiuto! Non posso uscire! Salvatemi! I droidi affamati cominciarono ad assaggiarlo. È squisito! Bippo, visto il fattaccio, chiamò via radio nonna computer. Bippo a nonna! Bippo a nonna! Il brigadiere è stato risucchiato dal buco nero! I droidi l'hanno preso! Abbiamo bisogno di aiuto! Nonna a Bippo, mando subito qualcuno. In pochi minuti la vecchia Zeche era sul posto e sparò nel buco nero un razzo cui era attaccato un cavo. Ci volle tutta la sua forza per trascinare fuori il brigadiere. Il povero bombardiere era pieno di buchi per i morsi dei droidi rossi. Oddio, aiuto! Si sono mangiati il mio metallo e hanno danneggiato i miei laser! Quando furono alla base spaziale, i droidi si raccolsero intorno a Zeche. Volevano sapere tutto. Il brigadiere bombardiere aveva ricevuto una lezione.